Thank you. ciel sia lode in tempo giungo. O mura gloriose, o bandiere di splendor, or vi rivedo e risaluto ancor. Chi sarà? Grazie vi rendo, io so bene chi siete. Sode una squilla, varcan le nostre porte bande d'armati, forme di traditor, fuoco, incendio, incendio e sangue, e sovra un flutto rosso cadde percosso della mia stirpe il fior. Orrenda strage terror, morti fratelli, morto mio padre, tutti spenti, ahimè. Fuoriusciti, e già l'ora del rivarco cessa l'indulto e la franchigia. Andate! Ma non per me l'invito del congedo, squillate o trombe! Qui convien ch'io resti. Giovin, dicesti parole insensate. Troppo tu chiedi, offendono i tuoi gesti. Questo tuo orgoglio punito sarà. Padre, sia pace, certo è sofferse nelle traverse vie dell'esilio, che il suo ciglio non si è ancora tolto l'amato volto della città. Merce fanciulla, tu del mio sogno schiudi le porte. Sogno di speme, fior di desio. Di qual sogno tu parli? Esso è raggiante e in suo nome anche morte è una vittoria. Pace o guerra vuoi tu? Guardo, Adriante. E il prezzo di tua pace? Eccolo! La mia figlia! Nello nome di Dio che ci guarda, per l'armi lasciate all'altor, ritrae la parola codarda, bandito del bosco e del mor, o cerchi che l'odio riarda. C'è stato l'indulto, è troppo carissimo, forse trovi l'insulto, ma papà lo dico furor. Se bravo dei bardi la figlia, un puro desio mi consiglia, fanciulla divina è per me. a terra mura, s'avventa sulla mia città. Ecco, un fantasma s'è levato ed erra sopra i campi. Che mai, donna, sarà la tua patria periglia, ma salvarla tu puoi. Oh! Madonna, tra il modo oriente per riverir vostra signoria, veniamo di Soria e gran colpi vedemmo e cader gente. Ma le pietre han valor contro gli schianto, e ferite risane alle più triste. E guerrier le ametiste pei begli l'ombra e per le donne. Il pianto. Pianto s'asciuga a fuoco di rubino. Su, Madonnetta, osservalo. Grande! Tremi il gioial paterno ed ora è mio. Donde ne vieni? Che sei? Guardami bene. Guardo, sei tu? Con io. Oh, mio fratello. Con i nomi, fratello. Io non ho più sorella. Mi rinneghi così? Oh no, sei bella. Anche la solla tesca t'ama, dei capitani di ventura sei la mirabilesco, travarcando le mura ove la morte doncia, ascoltai la parola terribile, e l'amante ladro da di lui, nel forte brando il nemico esecrando. Saper del genitore. Forse fu spento. Sì. Fummo al travaglio, oste controste, nell'attresso il ponte ci divideva arcieri e balestriere, saettava la morte. Sulla fronte dei nostri, dei fratelli tuoi, dei fieri patrizi, era tuo padre morto di morte. Dal e la caduta a testa reclinando. Oh, terrore, a te t'arresto. No, e tu dal mio dolore ti basti. E tu doveri, overano i tuoi casti labbri e le vere conde ciglia e le chiome bionde sovra i mogli origlier della lussuria, posami in braccio il traditore. Che muoia, che muoia! No, continua a restare. Che muoia! E la vergogna contemplando l'orror di tua sciagura. Non più, che muoia! Non più, non più. morte. Vittima sua perché? Per la patria e per te. Prometti.

che m'ami, indegno non sono io di te. Ripeti Amen. Il mio fratel dov'è, bardo dei bardi? Eccomi a te, cognato e mio signore, con questi eletti cavalier gagliardi, per darti fede e per offrirti onor. E dire che io me lo mangio, e no, mi nota il rotto del tuo valor, io sotto, per tuo posto, signori, e sia vostra gran cortesia, difesa il mio gioir, ma il mio lauro più lieto ora è la sposa mia. acqua santa. sento, ma la vita, il forte brando, non morrà tradimento, no, vile, prestatemi! Signore, un contro cento, aiuto, armi contro armi, mano a lacciar, oh vili, vili, vili! Portai la pace tra voi, i danni! Calmati! È troppa la mia tortura, è troppa! Ancora, spai! Non posso, brucio! E Dio con noi! Vano è sperare! Torna la vita! La vita fugge! Salvati, addio.